È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento. I numeri per chiamarci in diretta e dire la vostra sui fatti del giorno: il numero verde 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, tg2. Guantanamo, a Londra, il primo ex detenuto rilasciato dopo l'elezione di Obama, etiope, residente in Gran Bretagna, prigioniero da 7 anni, chiede giustizia. Mi hanno torturato, dice, ho le prove. Scende all'1,6% l'inflazione a gennaio, i dati Istat confermano la frenata dopo il calo dei costi di energie e carburanti. Soddisfatto il ministro Scajola, i consumi tengono. Prime ammissioni dei due nomadi fermati per l'omicidio a Catanzaro di uno studente colpito al cuore con una coltellata. Uno è minorenne, la rissa dopo uno scherzo di carnevale. Arrestato a Genova mentre si calava con la corda da un appartamento appena svaligiato, 27 anni passati in carcere, fuori per un permesso, risulta invalido con tanto di pensione. 8 statuette al film The Millionaire, festeggiano in India i genitori della baby attrice Rubina Ali, esulta il primo ministro, ma c'è chi protesta e dice la vittoria agli Oscar dà un'immagine del paese da terzo mondo. Le cose non sono poi così lineari come sembrano, non sono nemmeno così scontate. Sulla vicenda delle ronde, pensate un po' chi è contrario, una persona che certamente non incontra il favore dell'opinione pubblica, che certamente non ha una bellissima fama. Marcello Dell'Utri, pensate un po', il senatore del PDL, che dice: le ronde e il carcere sulle intercettazioni sono tutte reazioni esagerate. E invece Filippo Penati, che è il presidente della provincia di Milano, si dice estremamente favorevole alle ronde o comunque a una mobilitazione dei cittadini per presidiare il territorio. Sentiamo i titoli di Studio Aperto. Università, altro là del capo dello Stato, no ai tagli indiscriminati, il governo ci ripensi. Risponde il ministro Gelmini, d'accordo, ma bisogna eliminare gli sprechi. In Italia 327 facoltà non superano i 15 iscritti, 5.500 i corsi di laurea, il doppio del resto d'Europa. L'assassino di mia figlia deve restare in comunità perché è pericoloso, dice la mamma di Monica Trapani. La figlia 8 anni fa fu ammazzata dall'ex fidanzato a scuola, che non ha mai fatto un giorno di carcere. Ucciso per uno scherzo, due nomadi di 23 e 17 anni sono stati fermati per la morte di un giovane universitario colpito al cuore durante una rissa a Catanzaro. L'accusa è di omicidio volontario. 118 preso d'assalto nel Triestino dopo la festa di carnevale, decine di ragazzine ricoverate in ospedale ubriache e allarme alcol tra i giovani. Lasciamo case, scuole, officine, mutande in caserme, le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, entrammo le muscole fuori in battaglia, siamo i ribelli. Di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni di segretario del Partito Democratico nell'interesse esclusivo della nazione. Cos'è successo? Siamo tornati indietro? C'è bisogno di prendere i fucili, scappare e rifugiarsi sulle montagne e attendere tempi migliori, combattere con il fucile in mano il governo Berlusconi? Perché insomma la novità che viene dal nuovo segretario del Partito Democratico, Franceschini, Dario Franceschini, da Ferrara è proprio questa. Il giuramento sulla Costituzione è una serie di frasi sul Presidente del Consiglio, sulla sua politica, che suonano più o meno come quelle che vi facciamo ascoltare. Sentite la prima, sempre a Ferrara. Berlusconi, che, da cui ci si attendono mesi molto molto duri. È anomalo che un dirigente politico legga la formula del giuramento alla Costituzione, che è imposta soltanto al Presidente del Consiglio e ai Ministri. Ma io credo che ci aspettino mesi molto duri, Il Presidente del Consiglio ha in mente un paese diverso, ha in mente un paese in cui il potere viene sempre di più tacitamente concentrato nelle mani di una sola persona. Questo è contro la Costituzione a cui lui ha giurato fedeltà. Disprezza i principi della democrazia. Berlusconi ha in mente una forma moderna di autoritarismo. Sentitelo alla incoronazione, nel momento dell'incoronazione come segretario del Partito Democratico. Abbiamo un Presidente del Consiglio che disprezza i principi della nostra democrazia. Abbiamo un Presidente del Consiglio che offende la Costituzione. Questo anno di governo ci ha tolto ogni dubbio. Berlusconi ha in mente una forma, ho misurato le parole, Berlusconi ha in mente una forma moderna di autoritarismo. Non vuole governare il Paese, non vuole governare il Paese, vuole diventare padrone d'Italia. Vive come un ingombro il Parlamento. Vive come un ingombro il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Arriva al cinismo di attaccare la Costituzione attorno al letto di una ragazza morente. Arriva al cinismo di usare la paura dei cittadini, degli anziani, per legalizzare le ronde, per approvare norme sull'immigrazione che offendono i più elementari diritti dell'uomo, che ci fanno vergognare negli altri paesi. Fischia il vento, urla la bufera. Beh, non c'è solo questo naturalmente, questa parte del Franceschini, dei due giorni di Franceschini tra Roma e Ferrara si è soprattutto concentrata su questo, diciamo la verità, almeno la cosa che più ha colpito me è stata questa. Un altro stralcio lo dobbiamo per i nostri padri, dobbiamo proseguire la battaglia, immagino a questo punto contro il nuovo dittatore, per i nostri padri, dunque un richiamo sia al padre partigiano naturalmente che era presente, ma anche ai padri fondatori della Repubblica. Berlusconi cercherà di usare un successo alle europee per avere la forza di completare il suo disegno strisciante. È il momento di non tradire i nostri padri, i loro ideali, il loro sacrificio, le loro battaglie. È il momento di raccogliere tutte le forze per difendere la democrazia italiana e per difendere la Costituzione. Basta paura, basta rassegnazione. Questo Franceschini, 800 24 00 24. Naturalmente ci sono altri protagonisti, altri personaggi per i vostri interventi. Dunque, Franceschini alla Costituzione. Io capisco i simboli, anche quel tasso di demagogia che la politica impone, capisco che bisogna serrare i ranghi, preservare i voti che sono in uscita, soprattutto verso Di Pietro, però a questo punto la differenza tra l'Italia dei Valori, tra il capo dell'Italia dei Valori, che naturalmente si è molto soddisfatto di questo discorso di Franceschini, e il capo del Partito Democratico si assottiglia sempre di più. Poi può essere una cosa positiva o negativa a seconda degli occhi con cui si guarda a questa parte politica. Dove andiamo? Andiamo a sentire Luciana Littizzetto, perché Luciana Littizzetto dà dei consigli a modo suo a Franceschini. Sentiamola. Allora, sì. Adesso bisogna dare dei consigli al Frank. Non credo che ti competa, onestamente. No, ma io volevo dargli. Ma non è il caso. Frank, senti. Lucianina, ma perché? Secondo me, no. Dovresti fare una cosa. Vuoi fare un partito tosto? Vuoi battere Berlusconi? Devi fare un partito che sia peggio degli altri. Peggio, proprio, è l'unico modo. Devi tendere proprio al marcio. Fondi un partito che si chiama PFP, Partito dei Figli di Puttana. Luciana! E, per esempio, ti do il programma, Frank. Allora, programma di partito: evasione libera. Sì. Calci in culo ai poveri. Ronde in tutta Italia. Sì. Cementificazione delle coste obbligatoria. Meno scuola, più shopping. Poi, Frank, ti metti tre bandane, una in testa, una davanti, una dietro, e racconti la barzelletta della suora e del funghetto tralalla. E vedrai che gli italiani lasciano Berlusconi per votare te. Sono sicura, sono convinta. Fermati. Ferma. Brava. Temevo il racconto della barzelletta. Brava. Va bene, 800 24 00 24. Prima di sentire i vostri ascoltatori, volevo riproporvi un altro ascoltatore intervenuto venerdì, che ci ha detto che sta per organizzare delle ronde con dei Defender, cioè dire con delle Jeep modello pattugliamento, sapete, con quei fanali, non so, io li ho visti forse ai vigili del fuoco in montagna o durante la seconda guerra mondiale, durante le guerre, nei pattugliamenti. Sentitelo, è intervenuto venerdì sera. Il governo ha fatto bene a regolarizzare le ronde, perché le stavamo già facendo, molti le stavano già facendo in modo un po'... Anche lei? Sì, anche noi a Roma, il decimo municipio. Decimo municipio. E abbiamo iniziato, adesso stavamo facendo qualcosa di più organico, contattando degli ex ufficiali dell'arma e della polizia per fare dei test d'ingresso. Fatte bene servono, sì. A che servono? A presidiare? A... Servono, noi per esempio utilizzeremo Defender con le luci, con dei fari molto grandi sopra, servono in modo dissuasivo. Mi scusi, che cosa volete usare? Dei? Dei Defender, Land Rover, i Defender. Ah, delle macchine con i cose, ma questo mi sembra un pattugliamento in stile, non so, seconda guerra mondiale. Ma noi non possiamo comunque, non avendo armi, non avendo nessun tipo di strumento per impedire poi qualcosa, possiamo solo vedere. Avete sentito? Sì, qualcuno ha in mente di fare delle ronde con le Jeep con i fari. Fate voi. Francesco da Roma, buonasera. Luciani, buonasera. Dica. Senta, quello che ha detto quella ascoltatura, adesso a parte i fari, le ma no, a parte i fari, le Jeep, no, è quello che vogliono fare. Perché no, a parte? Che vogliono, lo fanno da quelli, vi assicuro. Che male, molto male. Uno torbe la monaca, adesso l'altro non mi viene. E pattugliano il quartiere da mezzanotte fino alle 4, alle 5. Ma chi lo fa? Chi lo fa? Dei ragazzi, una quindicina di giovani. Per cui non è una cosa nuova, non è che questo signore ha detto panzane. Ma in che modo sono organizzati? Qualcuno li controlla? Ci sono dei nomi, dei cognomi? C'è una ronda organizzata? Perché no, altrimenti... evidentemente tra loro sono organizzati. Si comunicano tramite il telefonino, questo io glielo dico perché è vero, perché a parte che c'è una radio privata che sguinzaglia 3-4 reporter, chiamiamoli così, per la città, in zone un po', sì, un po' difficili, come? Un po' difficili, zone, ecco, un po'... E riconoscono addirittura le targhe delle macchine e le persone, come dire, estranee al quartiere, Per cui questa non è una novità e non mi sembra una cosa assurda. Da quel dì che lo fanno. Francesco, a lei sembra positivo? Come no, caspita. E perché? Assolutamente. Per cui non so se c'hanno, non credo proprio, che abbiano armi. Speriamo o di no. Ma no, ma è evidentemente... Hanno, cioè è utile tutto. Secondo lei? Secondo lei è utile? Ma come non è utile? Ma che scherziamo con quello che succede a Roma? La polizia non gliela può fare perché ho son pochi o che cosa? Per cui che cosa fanno questi qua? Pattugliano con le luci, eccetera, appena si accorgono di qualcosa avvertono chi avvertono? Cruciani, no, si avvertono tra loro, evidentemente c'hanno... E una volta che si avvertono tra loro poi che succede? Mi che spieghi? Succede? Che se c'è qualcosa che non quadra, evidentemente convergono in quel posto, in quella zona e buonanotte ai suonatori. E poi buonanotte ai suonatori che significa? Che menano? Ma che ne so, Cruciani, ma abbia pazienza, io le sto dicendo che questa storia esiste da quel dì, non è per queste condizioni attuali dei rumeni o eccetera eccetera, e per me fanno benissimo. Ma fanno benissimo a fare cosa? Cosa succede dopo che individuano un problema, dopo che pensano che non quadri qualcosa, come dice lei, che fanno? Me lo spieghi, perché evidentemente lei lo sa. Lo so, sì. Appunto, per questo glielo chiedo, che fanno? Intervengono con Ma non lo so, e allora praticamente prendiamo io apposta gli ho detto, c'è una radio che sguincia da questi reporter. Loro già addirittura conoscono cioè vedono che è uno straniero, tra virgolette. Per cui il reporter non fa altro che andarsene, ecco, e comunica alla radio che si stanno avvicinando un giovane, due giovani. E loro evitano, tutto qua. Non è che... Francesco, ancora lei mi deve dire, una volta che vedono che c'è un problema, o presunto tale, diciamo, cosa fanno? Intervengono con la forza? Io ripeto, ascolto questa radio ma non è mai successo. Quale radio è? Non so se io adesso non ricordo, è una radio. Questo non sarà il segreto di Fatima, mi dica che radio è. Mi sembra Teleradio Stereo, però sono varie ore secondo... Va bene, ho capito Francesco. Lei ci vuole dire che le ronde esistono già, esistono gruppi di giovani che si sguinzagliati per quartieri di Roma a controllare il territorio. Va bene. Certamente. La ringrazio. E lei pensa che sia una cosa positiva, che fa bene alla sicurezza? D'altronde la polizia non c'entra là dentro e c'è poco da fare. A meno che non succeda una chiamata proprio del cittadino. Io vorrei capire, questi che fanno se non avvertono la polizia? Se la sbrigano da soli? Se la sbrigano da soli. No, bravo, ho capito. La ringrazio, Francesco, la ringrazio. Buona serata. Sgarbi contro Benigni su Sanremo. Prendi soldi per fare comizi politici. Roberto Benigni, pagato 350 milioni di euro, 350 mila euro, e 6 milioni per Dante, quindi 700 milioni di lire, è un leader politico. Se viene a fare il comico non può parlare di Iva Zanicchi in riferimento a Berlusconi e attaccandola sul piano politico. Non lo può dire dicendo ha letto con Berlusconi. Oltretutto mi sembrava anche abbastanza spiritoso. È un uomo spiritoso, ma va ricordato quando con la Carrà ha detto 50 volte il nome della gnocca in maniera assolutamente spiritosa, e non si può preoccupare per una canzone in cui si dice la stessa cosa. Per cui che dica una volta e faccia il moralista non va bene. Scatenato ieri all'Arena, condotta da Massimo Giletti, devo confessarvi una cosa: io sono un ascoltatore, non si può dire un telespettatore, che la domenica ogni tanto, non sempre naturalmente, quando ho tempo, via l'Arena e me la guardo tutta dall'inizio alla fine. Polemiche, rido da morire, qualche volta ci sono anche cose molto interessanti, insomma è un talk show che dice la sua. Ancora Sgarbi. Lo state facendo voi il comizio politico, non Benigni, state facendo il comizio politico. Certo, perché non dovremmo farlo? Se lo fa Benigni pagato, posso farlo io gratis e la Zanicchi gratis. Che gli tolgano i soldi e faccia politica se vuole. Non che lo paghino per fare politica. Non che lo paghino per fare politica. Che gli danno i soldi per fare politica. Lo pagano per fare politica. Questo fa la televisione. La Zanicchi è qua gratis. La Zanicchi è qua gratis e anch'io. Allora, altro che politica, la faccio politica quanto mi pare. Allora, se la fa lui, Vittorio, pagato. Vittorio. Non la sinistra fa politica adesso. Ma va bene. Ce n'è un'altra migliore, però ve la mandiamo dopo alle 19.15. Mario da Monza, buonasera. Sì, buonasera, senta, sarò velocissimo. È una settimana che si parla di Veltroni, Franceschini, con tutti i dettagli, minimi, massimi, eccetera. Lei ha ragione, forse troppo. Com'è? Forse se ne parla troppo, però... Forse insomma. Se ne parla troppo, ma no... Voglio dire questo, che se ne parla perché? Perché Veltroni ha dato le dimissioni. Beh, certo. Dopo. Lei conosce i risultati ufficiali delle elezioni in Sardegna? Erano rimasti fermi a non so quante sezioni, poi non mi sono più informato perché ormai il dato era chiaro. Dati 8 giorni, la televisione italiana non ha ancora detto una parola. Se sono ancora fermi a contare oppure se sanno i risultati e non li danno. Si immagini se in qualsiasi altra regione ci fosse stato questo ribaltamento. Mario, lei ha ragione, per alcuni giorni non abbiamo avuto il risultato definitivo, non so nemmeno se ci sia adesso, immagino e spero di sì. Claudio, provincia di Pisa, la ringrazio. Mario, Claudio, dica. Buonasera, Radio 24. Dunque io vorrei ritornare sul discorso di Franceschini, delle elezioni che hanno avuto un grande clamore, compreso poi anche il seguito con il giuramento sulla Bibbia a Ferrara, dove suo nonno era gerarca o roba del genere. Comunque, a prescindere questo, che poi uno può cambiare idea... Franceschini non c'entra niente col nonno, abbia pazienza. Sì, no, infatti ho detto... Andiamo subito a sentire i titoli del TG3. Napolitano, rivedere i tagli indiscriminati all'università, istruzione e ricerca assi portanti per lo sviluppo economico del paese. Il ministro Gelmini, vogliamo eliminare gli sprechi, nessun taglio indiscriminato, dice Brunetta, i rettori università a rischio sopravvivenza. Primo giorno da segretario per il nuovo leader del Partito Democratico Franceschini e ripartono le polemiche interne sul testamento biologico. Obama pronto a nazionalizzare Citigroup, il tesoro USA potrebbe rilevare fino al 40% del colosso bancario per salvarlo dalla crisi. La crisi afghana al vertice dei ministri europei, accordo sulla necessità di coinvolgere l'Iran, Frattini, talebani rifiutano il dialogo. Venezia apre le porte alla Coca-Cola, un accordo milionario per riempire la città di distributori automatici, cacciari, una strategia indispensabile. Mumbai batte Hollywood, 8 Oscar all'indiano millionaire, Federico Rampini al TG3 per sognare, gli americani guardano a Oriente. E davvero non si capiscono le polemiche di una parte del mondo politico e intellettuale, un po' snob direi, nei confronti di questa decisione, che ritengo assolutamente ottima, del sindaco di Venezia Cacciari di far installare dei distributori di Coca-Cola a Venezia, naturalmente sempre nel rispetto delle norme sui beni culturali, delle norme architettoniche. Sono soldi che servono per la città e contro questa argomentazione credo ci sia ben poco da dire. Andiamo a sentire Sky TG24. Napolitano chiede più risorse per la ricerca, no del Colle ai tagli indiscriminati. Replica il ministro Gelmini, eliminare gli sprechi e premiare gli atenei migliori. Frena l'inflazione, non il prezzo della spesa, il titolo Fiat declassato crolla in borsa. Obama pronto a nazionalizzare la banca Citigroup, ma Wall Street non decolla. Accoltellato a morte per uno scherzo di carnevale, fermati due nomadi a Catanzaro. È morta l'anziana non vedente violentata da un romeno nel Pavese. Giovane ubriaco al volante uccide un operaio romeno alle porte di Roma. Attentato al souk del Cairo, è giallo sul rilascio di tre sospetti arrestati. Il Minion Dario trionfa la notte degli Oscar, Sean Penn e Kate Winslet migliori attori. L'Italia pronta a sfidare gli inglesi, vigilia di Champions per Inter e Roma. Bene, 800 24 00 24, forse la migliore risposta al giuramento sulla Costituzione che ha fatto Franceschini, al di là della demagogia politica sia nel centro-sinistra sia nel centro-destra, l'ha data è proprio il sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che ha detto non c'è niente di peggiore di qualcosa di immutabile, sentite. Deve essere cambiata, però voi fate parole. È evidente che, come diceva Machiavelli, il modo migliore per distruggere le città è mantenerne immutate le leggi. E quindi la polemica del centro-sinistra dovrebbe essere sui temi delle necessarie modifiche, non sul resistere. Perfetto. Sono parole di Massimo Cacciari. Sentiamo le parole anche del padre di Franceschini, Giorgio Franceschini, che è intervenuto a quella manifestazione, anzi ha tenuto la Costituzione in mano sul giuramento del figlio, devo dire con un sorriso sulle labbra abbastanza significativo. Dice più il sentimento che il ragionamento. Beh, direi è una cerimonia un po' così, e poi molto inventata, insomma, più dal sentimento che dalle regole, più il sentimento che ha spinto a questa invenzione della Costituzione, questo ritrovamento, sentimento più che ragionamento, non vuole consigli. Massimo lo percuoto quando è necessario. Anche il padre dice mi sembra una cerimonia più inventata che poi basata sul ragionamento. Un altro protagonista di questo fine settimana appena trascorso è stato, e anche della mattinata, ospite sia di Radio 24 sia di Cominciamo Bene, una trasmissione che è andata in onda su Rai 1, Beppino Englaro, che ormai, dopo aver detto, e lo abbiamo ripetuto più volte, voglio sparire dalla circolazione, non mi cercate, eccetera, eccetera, ha deciso di fare una grande battaglia sul testamento biologico, come avete sentito anche dai titoli del TG3, c'è una spaccatura nel Partito Democratico, emendamenti presentati da gruppi diversi, non c'è un accordo. Beppino Englaro, invitato ormai da più trasmissioni, viene conteso, anche Vespa lo vorrebbe. L'hanno accusata di offendere le istituzioni. Non ho offeso nessuno, ho solamente preso atto che questo disegno di legge va in quella direzione. Subito a Filippa Lagerberg la parola per presentare il primo ospite di questa sera. È tornato a trovarci Beppino Englaro. Grazie. Buongiorno Beppino Englaro, lo ritroviamo dopo un po' di tempo. Ospite ormai in tutti i talk show, è tornato a parlare, in realtà non aveva mai smesso, seguo le mie idee, non sono una marionetta, a voi il giudizio naturalmente. 800 24 00 24 ed è ormai diventato un personaggio televisivo anche Clemente Mastella, come sapete. Ora dico una cosa abbastanza chiara qui. Dopo la decisione di ricandidarsi alle elezioni, in particolare con il PDL alle elezioni europee, forse sarebbe il caso che la televisione pubblica, e in particolare quelli che il calcio su Rai 2, limitasse le presenze, anche in assenza di par condicio, ancora le presenze di Mastella, ormai praticamente commentatore, e che commentatore, lo sentirete raccontare la crisi del Napoli appunto dal piccolo schermo, dal grande schermo si potrebbe dire, di quelli che è il calcio con Simona Ventura. Non ti si può guardare così, posso dirti? No, qua a Napoli non soltanto il freddo, ma anche il gelo, cioè il pubblico è esterrefatto, è fermo, è incavolato nero. Se la prendono con la dirigenza Clemente, di Napoli, scusami, Napoli ha gelato malissimo. Infatti questo successo del Genoa è meritato poi alla fine? Beh, insomma, in questo derby del Tirreno tra il nord e il sud, ancora una volta vince il nord e ahimè perde il sud. E questo mi dispiace molto e non so cosa fare, perché ho visto calciatori anche come Lavezzi cadere. Dicono qua a Napoli che le notti sono un po' notti calde, quelle di qualche calciatore napoletano. Il fatto di vederli non solo andar bene, ma anche cadere in campo senza condizione atletica, questo depone male i fini della squadra. Comunque questa settimana sono stati in ritiro, quindi non hanno fatto nulla. Beh, insomma, chissà con chi sono andati in ritiro. Vabbè, insomma, Mastella a quelli che il calcio. Ancora televisione e ancora eccessi televisivi. Vittorio Sgarbi scatenato contro Benigni. Vi abbiamo fatto ascoltare prima alcune cose, ma il clou deve ancora venire. Il clou è questo: l'accusa che fa Sgarbi a Benigni è quella di fare comizi politici pagato con i soldi del contribuente. Non usiamo parolacce. Citiamo Benigni, le parolacce che dico io sono quelle che dice Benigni in prima serata, uguali. Va bene. Non è che il suo vale più del mio, è uguale. Ha detto di tutto, ha detto di tutto, se lo può permettere. Ricordiamoci allora, che pagato, allora, uno dei pagato, pagato, che Benigni... pagato, restituisca i soldi, lei gratis, allora, restituisca i soldi, pagato, no, pagato, no. Comunista pagato, no. Pagato. Per risarcirla, diamoli a lei. Ogni professionista, Vittorio, e tu lo sai bene, viene pagato. Per cui Sgarbi. Io non vengo pagato perché è politico, lei non viene pagata. Lui che è un politico, leader della sinistra, che ha fatto la campagna per Prodi, che ha fatto la campagna per Prodi, viene pagato. Ridia i soldi, ridia i soldi, ridia i soldi. Il fantastico ascoltatore di prima, senza commento Sgarbi, lo lascio a voi naturalmente, il fantastico ascoltatore di prima che ci ha raccontato che in realtà le ronde esistono già, pattugliamenti di giovani in giro per i quartieri romani in collegamento diretto con le radio private. Luciani, buonasera. Dica. Senta, quello che ha detto quell'ascoltatore, adesso a parte i fari, lo fanno da quelli, li assicuro. Pattugliano il quartiere da mezzanotte fino alle 4, alle 5. Ma chi lo fa? Chi lo fa? Dei ragazzi, una quindicina di giovani, per cui non è una cosa nuova, non è che questo signore ha detto panzane. A parte che c'è una radio privata che sguinzaglia 3-4 reporter, chiamiamoli così, per la città, in zone un po', sì, un po', e riconoscono addirittura le targhe delle macchine e le persone, come dire, estranee al quartiere. Ma come, non è utile, ma che scherziamo con quello che succede a Roma? La polizia non gliela può fare perché sono pochi, si avvertono tra loro, evidentemente c'hanno... E una volta che si avvertono tra loro poi che succede? Mi spieghi? Che se c'è qualcosa che non quadra, evidentemente convergono in quel posto, in quella zona e buonanotte ai suonatori. Buonanotte ai suonatori, ancora non si è capito, poi in realtà... L'abbiamo capito cosa significa, cioè insomma picchiano e intervengono loro. Claudio, provincia di Pisa, buonasera. Sì, buonasera. Allora, cosa ci stava dicendo su Franceschini? Sì, no, su Franceschini, praticamente guardi, tutto quelli, gli spezzati che ha dato lei stanno raffigurando un pochino la situazione, perché non si vada più alla sostanza, basta occupare un pochino di spazio televisivo. Allora, venendo anche al congresso di Roma del PD, che non era un congresso, comunque l'Assemblea Nazionale, una riunione, chiamiamola come meglio, praticamente dovevano esprimersi 2800 o quasi 3000 candidati, se ne sono espressi solo 1000, più non si sa nemmeno qual è quelli che avevano diritto o meno, in quanto alcuni hanno ricevuto addirittura l'invito, il telegramma di presentarsi e che avevano dato le dimissioni. dimissioni da un anno prima. Esempio, uno è Antonio Pulito, direttore di Riformista. Quindi praticamente questo grande spazio, poi lo stesso il giuramento sulla Bibbia, sono d'accordo con no, sulla Costituzione, la Bibbia è un'altra cosa. Sì, sulla Bibbia, la Bibbia è Obama, ma siccome ora loro sono tutti attaccati a Obama... Ci mancava pure il giuramento sulla Bibbia e poi... No, ma ci sarà pure credo fra poco, così si occupa un po' di spazio, perché tanto... Non è male questa, suggerimento a Franceschini magari per... Ora gli farà il telegramma anche Obama, Franceschini... Perché non giurare pure sulla Bibbia? Claudio, la ringrazio. Maurizio da Milano, bella questa. Maurizio, dica. Dottor Cruciani, sono Maurizio, chiamo da Milano. Ma è sardo lei, dall'accento sì. Sento che è sardo. Sì, sì, sono di Oristano. Che mi vuole dire? Riguardo le ronde, io mi trovo sono d'accordo, perché penso che sia un buon metodo di prevenzione. Cioè, se io sono un delinquente e so che oltre ai carabinieri della polizia ci sono anche le ronde, sto più attento, magari ci penso 2 o 3 volte in più. Lei dice, eh? Io dico così. Tra l'altro in Sardegna da circa 25-30 anni esiste una forma di ronde armate addirittura. Sì, addirittura. Cioè dotate di doppietta, di fucili da caccia. Ma dove questo, Maurizio? In Sardegna, nelle zone rurali, si chiamano compagnie barracellari. Beh, fantastico, Maurizio, è talmente fantastico che le devo chiedere di aspettare qualche minuto perché abbiamo la borsa e poi mi racconta bene. Compagnie come, non ho capito? Barracellari. Sì. Con la B. Barracellari. Eravamo in collegamento con Maurizio da Milano, non c'è più, adesso lo riprendiamo, insomma le linee dovrebbero funzionare meglio, in qualche minuto non è possibile che se ne vada un ascoltatore, lo riprendiamo però. Luciana da Vicenza, buonasera. Buonasera. Beh, volevo dire qualcosa, se me lo permette, anche su Sgarbi. Prego. Si arrabbia tanto, però se risulta da qualche giornalino che è stato pubblicato che lui aveva chiesto grosse cifre per andare a far finta di fare il contadino alla fattoria, quindi probabilmente i suoi problemi economici lo stanno esasperando. Punto. Lei dice che dietro questa polemica su Benigni c'è un po' di invidia per i compensi che prende Benigni. Sì, esattamente, probabilmente ha problemi di liquidità. Comunque lasciamo perdere. No, tra l'altro, Luciana, mi scusi se la interrompo, lei mi stimola su questo argomento. Non capisco dov'è la novità, tra l'altro, perché insomma, Benigni lo sappiamo, fa sempre polemiche di questo tipo. Polemiche rivolte soprattutto ad una parte politica, ma anche a un'altra ogni tanto. Per cui dov'è il punto? Poi la vicenda di Iva Zanicchi è troppo interna al festival per commentarla. Danneggiato Iva Zanicchi o non l'ha danneggiata, ce ne importa poco. Ma parlarne magari potrebbe anche averla avvantaggiata, magari. Sì, anche secondo me. Comunque, parlando delle ronde, io volevo dire una cosa: io non sono una ragazzina. E solo la parola ronde mi fa schifo, perché mi ricorda di tempi un po' bui, no? A parte questo, con il tipo di giovani, sentendo le telefonate di prima, no? Con il tipo di ragazzi che potrebbero partecipare a questo tipo di ronde, immagino la caratteristica di questi personaggi, no? Attraversiamo il discorso delle radio che fomentano queste cose, dovrebbero fare qualcos'altro le radio, dovrebbero aprire un po' i cervelli e invece purtroppo fanno queste cose qua, pazienza. Però questi ragazzotti che non si sa di che tipo di preparazione o di ispirazione possono avere, no? Oppure io le immagino, comunque voglio essere buona e non dirlo, ma scusate, io se vengo fermata da una pattuglia di carabinieri o di polizia e ho 53 anni, bene o male mi sento un po' a disagio e ho paura, soltanto vedere delle divise, magari col mitra, col... Ma perché ha paura della polizia? No, il fatto di vedere l'arma mi terrorizza. Ah, l'arma. È stato una volta a un posto di blocco che ho detto, guardi, io mi muovo se lei abbassa quell'arma perché mi fa paura. Mi faceva paura proprio solo il vedere sta roba, no? Perciò questo è il mio tipo di personalità. Si figuri immaginarmi delle ronde di ragazzotti magari con bastoni e coltelli in giro a fare i cretini, cosa può suscitare in me. E io direi che questi ragazzi magari dovrebbero impegnarsi di più e darsi un po' più da fare per rendere la loro vita migliore in modo diverso. E secondo me, comunque, e anche so che magari lei si arrabbierà, ma lo dico lo stesso, è un po' colpa dell'informazione. Perché se è vero quello che ha detto il Premier, che io non voglio citare, perché io dubito molto di quello che dice, ma in questo caso voglio far finta di credere. Lui ha detto, e l'ho riportato anche il televideo e molti altri telegiornali, che i reati in Italia sono diminuiti del 10%. È stato scritto. No, ha detto che gli stupri sono diminuiti nel 2006 e nel 2007, credo, così ha detto, del 10%. Si riferiva agli stupri, comunque, insomma... Un po' vari reati, mi sembrava. Sì, comunque... Comunque io volevo dire questo, allora se sono diminuiti o negli altri anni non ci davano informazioni o adesso si esagera, si calca la mano, perché beh, guardi, vuole... Luciana, la ringrazio di questo intervento, di questa domanda. Berlusconi, quando il decreto è stato emanato, ha parlato di clamore. Siccome c'è stato il clamore di questi episodi, allora abbiamo fatto il decreto, l'ho detto in maniera piuttosto chiara. Ognuno giudica come vuole giudicare, naturalmente, al di là dei singoli provvedimenti che possono essere giusti o meno. L'ispirazione è il clamore. Maurizio da Milano è il sardo di Oristano che ci aveva chiamato prima e ci parlava delle compagnie barra cellari. Noi abbiamo qui, perché siamo rapidissimi, Maurizio, c'è? Eccoci qui. Allora, il Consiglio regionale, 15 luglio 1988, legge regionale sarda, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge, che è l'istituzione, il potenziamento delle compagnie barracellari, che sono sostanzialmente delle compagnie di persone per la custodia rurale, non ho capito bene, ci spieghi meglio, perché qui la legge, sa, poi bisogna... Ogni tanto si usano dei termini piuttosto astrusi nelle leggi. Nemmeno io so perfettamente come funziona, però suppongo che siano magari ex poliziotti, ex carabinieri, persone di onestà garantita che hanno la possibilità di andare in giro per le campagne a svolgere queste ronde, proprio per evitare, per prevenire il furto di bestiame. Non hanno mai sparato nessuno, per quanto io sappia non hanno mai ucciso nessuno. Beh, insomma, Maurizio, però mi scusi, è una cosa un po' diversa rispetto alle ronde così come vuole istituire il governo, secondo poi la volontà dei sindaci, perché le compagnie barracellari sarde servono a salvaguardare il patrimonio boschivo, leggo qui, a salvaguardare il patrimonio idrico, la tutela dei parchi, gli incendi. Saranno pure armati di doppiette, però non è che possono intervenire qua se vedono che non so, cioè, è un po' diverso. Non si trovano in città, si trovano nelle campagne per alcuni compiti specifici. Ma infatti io sono d'accordo che girino qui nelle città con i telefonini e basta. Ma in Sardegna in certi casi bisogna intimidire, perché sennò purtroppo in campagna si sa come sono certe persone, ecco, specialmente i ladri. E perciò questi girano con tanto, io li ho visti, io me li sono incontrati davanti, questi uomini armati. Fanno paura? Erano dei cacciatori, mentre invece erano delle guardie, come dire, private, non saprei definirle. E si chiamano barracentos. Ma insomma, servono o no, secondo lei? Servono oppure sono così un orpello antico? Beh, insomma, stiamo parlando dell'88, quindi non è antico. Beh, no, attenzione, nell'88 però c'è un regio decreto del luglio 1898, insomma, non è che risalgono adesso, evidentemente era una pratica, un'usanza antica, poi rinnovata successivamente. Certo, il furto del bestiame è una pratica antica. Certo. Comunque stiamo parlando di cose un po' diverse, lì è una tradizione evidentemente molto radicata. Maurizio, la ringrazio molto. Grazie a lei, buonasera. Mauro da Roma, Mauro, buonasera. Buonasera Cruciani, lancio una piccola provocazione, nel senso che comunque avendo eletto Franceschini segretario del PD in questo momento e non vedendo niente di nuovo, a questo punto Benigni leader del centrosinistra per riuscire a battere Berlusconi, perché non capisco adesso con Franceschini qual è il cambiamento, qual è la cosa nuova che dovremmo andare a votare adesso alle europee e alle prossime politiche, le regionali, comunali o quello che sarà di conseguenza. Ma guardi, adesso, lei che ne pensa? Lei butta lì, la butta lì una provocazione, no, che già era stata fatta quando... Sì, prego. No, già era stata fatta questa provocazione all'epoca di Moretti, no? Più o meno. Beh, Moretti è meno carismatico, è un po' antipatichello. Brigni è più simpatico. Sì, d'accordo, ma insomma è come dire, scegliamo un attore. In America succede, sì, come ma sapete. Sì, vado a votare, devo votare il socio di Veltroni, cioè il vice di Veltroni, il vice disastro, come dice Renzi. Cioè, no, ma non è quello il problema, perché tanto, cioè, io vorrei un qualcosa di concreto, un qualcosa di sostanziale, un cambiamento, un qualcosa che mi ci fa credere, un qualcosa che mi dà la possibilità di andare a votare con una prospettiva, con un futuro. Qui siamo sempre alle solite, cioè cade uno, c'è il secondo dietro, è andato via Prodi e il secondo era Veltroni un po' di tempo fa nel 96, quindi... Ma sì, Mauro, bisogna vedere qual è, però bisogna vedere in che cosa si vuole cambiare, però c'è proprio la proposta politica, forse è quella che manca, una linea chiara, al di là poi delle persone che la interpretano, che sono naturalmente importanti per tutti i motivi che sappiamo, per il carisma che bisogna avere, per la capacità di comunicare e tutto. Quello che manca mi sembra una, così, una barra, una direzione. Pronto? La sento Mauro, la ringrazio. Ah, sì. Claudia da Novara, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Prego. Io volevo dire che... Non, mi sente? La sento molto bene. Sì, perfetto. Volevo dire che non sono per niente in accordo con la signora che ha parlato prima. Io ho 37 anni, vivo in una città piuttosto tranquilla. Quello che io dico è... Bisogna salvare queste ragazzine, qualunque cosa, non dico qualunque cosa, però dei mezzi che siano i più larghi possibile per evitare che anche solo una di queste ragazzine venga crocifissa come viene crocifissa, deve essere attuato, nella mia opinione. Non ritengo che succederà nulla, tipo che dei ragazzi armati di mazze, bastoni o quant'altro, di nero vestiti, con i capelli rasati, andando in giro per le città. No, ma questo non lo credo nemmeno, io, Claudia. Queste sono delle esagerazioni, delle paure che fanno parte di quella, di quel circo Barnum che è la politica italiana. E non c'è nessun pericolo di questo tipo, su questo sono d'accordo con lei. Sull'utilità in realtà dei presidi per evitare, del controllo del territorio da parte dei cittadini organizzati per evitare gli stupri, su questo francamente ho molti dubbi. Ma io posso, cioè, io sinceramente da cittadina posso pensare che la polizia e i carabinieri si facciano carico di tutto questo lavoro? Io non, sinceramente sono, non penso che loro lo possano fare, perché sì, però fosse così, Claudia, fosse vero, sì, no, ma ho capito, però fosse vero quello che dice lei, allora perché in tantissimi altri paesi d'Europa non hanno pensato di istituire in maniera così capillare, con un decreto legge addirittura, le ronde dei cittadini? In fin dei conti già in diversi comuni italiani esiste un sistema, diciamo, di ronde tra virgolette sporadico, spontaneo, tollerato da parte delle forze dell'ordine. Perché istituzionalizzare questo se non per una posizione, diciamo, per comunicarlo, per comunicare che si sta facendo qualcosa da questo punto di vista? Non credo che risolva qualcosa la istituzionalizzazione della ronda, o no? Aiutare sì, risolvere no, cioè, niente. Sì, ma nemmeno aiutare, guardi. Niente. Io non, se vogliamo rimanere sulla questione degli stupri, io penso che sia un fenomeno purtroppo ineliminabile. Ineliminabile, non, come si può arrivare? È come dire voglio estirpare la criminalità comune. Un minimo di criminalità comune resterà sempre. Poi lei dice se dovessero servire anche a salvare una persona da uno stupro, ben vengano, no? Sì, ci deve essere, voglio dire, la criminalità ci sarà sempre, non saremo mai noi quelli che vedremo questa cosa che finisce. Quello che io dico è ci troviamo adesso in una situazione di emergenza per tanti fattori, allora inutile andare a fare della dietrologia, cerchiamo di guardare quello che abbiamo nel piatto oggi, non che prima c'era l'antipasto, adesso siamo al secondo senza essere passati dal primo. Oggi nel piatto abbiamo questo, cerchiamo di risolvere questo. In Italia ci sono dei conflitti, dei problemi di integrazione, ma non solo con gli stranieri, tra gente del nord che si arroga ancora il diritto di essere migliore di gente del sud. Allora, sì, no, ma guardi, adesso al di là di ho capito. Con lo straniero, però sì, ma adesso lei sta andando su un altro discorso. Un ascoltatore adesso mi scrive un SMS: a Londra le ronde ci sono, non sono istituite per legge, non ci vogliono dei decreti legge, in molte città d'Italia nascono spontaneamente, sono più o meno tollerate dalle forze dell'ordine, senza grande clamore ogni tanto possono aiutare. Luca Telese del Giornale, ciao Luca. Buonasera. Ciao, come stai? Grazie, tornare qui è sempre un bel ronzare. Allora Luca, aiutami a capire una cosa. Come inquadrare in questo eterno caos della politica italiana, magari meno caotica da un po' di mesi a questa parte, ma il caos c'è nel Partito Democratico, come inquadrare questo giuramento sulla Costituzione da parte di Franceschini? Abbiamo sentito prima le parole del padre, Giorgio Franceschini, che dopo la cerimonia ha detto: beh sì, ma insomma, alla fine non è che sia qualcosa di di serio, è una cosa che ha più a che fare con il sentimento che con il ragionamento. Sì, secondo me è stata una bella trovata mediatica, perché Franceschini, uscendo da due giorni drammatici, devastanti, addirittura era ultimo in qualunque indicazione dei sondaggi dei militanti del PD, nessuno lo indicava come leader, ha dovuto svolgere questo ruolo sperando magari di riuscire un colpo a sorpresa ingratissimo del segretario Ponte. Bene, insomma, lui si è presentato lì, ha costretto Berlusconi a rispondere, ha tirato fuori, come dire, un po' del suo almanacco mediatico, la bella figura del padre, questa copia della Costituzione sulla Gazzetta Ufficiale d'epoca. Però detto questo, è in grande difficoltà e quindi si fa quel che si può, come si suol dire. Ecco, ma tutte queste frasi che hanno ricordato un po' il Di Pietro degli ultimi mesi, in realtà il Di Pietro anche di questi giorni, sulla dittatura, sul pericolo, Berlusconi, cioè noi prima ci abbiamo un po' giocato, come sai, allora abbiamo mandato in onda le canzoni dei partigiani, perché insomma, se uno vede che poi c'è una dittatura all'orizzonte, dovrebbe prendere il fucile e andare in montagna, no? Guarda, io credo che... Ecco, al di là di questo, dico, al di là la domanda è questa, al di là delle parole, eccetera, qual è il significato politico? Serrare i ranghi, tenere i propri elettori in uscita verso l'Italia dei Valori, è questo il significato? Quadrare il cerchio. Il PD è un partito con due anime ormai, proprio in cui sono saltati tutti i punti di sutura dell'amalgama mal riuscita, come disse D'Alema, e adesso un segretario che viene dal PP deve essere digerito dalla povera base post-comunista che ha cambiato quattro simboli, quattro nomi, sei leader, non ne può proprio più, e allora deve dire, tra virgolette, come direbbe Nanni Moretti, di qualcosa di sinistra. Ci prova in parte perché ne è convinto, in parte perché sennò perderebbe pezzi subito, deve apparire sicuramente più deciso di Veltroni, perché insomma la definizione che gli ha pioppato oggi Mattia Obama Renzi è devastante, il vice disastro. Ma uno come fa a fare politica se gli arriva sulla testa una tegola di questo tipo? Beh, devo dire che Matteo Renzi, che abbiamo cercato perché lo vogliamo trasformare fino a quando la par condicio ce lo consentirà in una sorta di personaggio fisso, perché non c'è dubbio che sia una novità anche dal punto di vista mediatico, no? Come linguistico, sì, come parla, comunicativo. Non so come diventerà, però ecco, uno che dice vice disastro è nel giorno in cui tutti gli oligarchi con questo rito vecchissimo, polveroso, dicono l'unica cosa giusta, l'unica cosa da fare. Ci hanno raccontato fino a un giorno fa che il PD aveva un'originalità, un vantaggio competitivo rispetto a Berlusconi, che erano le primarie, il primo leader che hanno dovuto scegliere le primarie sepolte. Quindi è chiaro che Mattia Renzi in questo vuoto sfavilla, ma è anche... Si è montato un po' la testa? Cerchini. Ma secondo me fa bene a montarsi la testa, la storia, la politica sono di gente che si monta la testa, di megalomani, sì, non di certo. Megalomani repressi che fanno lo stesso calcolo di presunzione, però si fingono. Anche secondo me fa bene a osare, fa bene a dire la sua, vice disastro, non c'è espressione, adesso al di là del giudizio, non c'è espressione mediatica più riuscita, no? non te la togli più dalla pelle, è veramente devastante, un po' come l'ectoplasmi di Fini, cioè sono quelle parole che poi si ricordano, anche se vengono smentite, come nel caso presidente della Camera, smentite dai fatti. Però devo dire anche un'altra cosa, aspettiamoci da Franceschini qualche piccolo fuoco d'artificio. Io dico sempre che se lui non si fa di epo, di coca e di crack tutti insieme, alle europee va sotto il 25 e il PD è morto. Invece il suo calcolo è partire come un uomo di transizione, come un papa messo lì barcollante, non dico tipo Giovanni XXIII, mettiamo un vecchietto e poi fare un grande pontificato, questa è la sua scommessa. Però Luca, quello che esce proprio spappolato è il povero Bersani. D'Alema gli ha dato quello schiaffo che apparentemente era una carezza di dire ho fatto male a impedirgli di candidarsi alle primarie, no? Ti ricordi? Sì, sì, e chi sì. è un leader a cui viene impedito di candidarsi? Aveva appena finito di emendarsi di questa cosa, era sceso in pista e poi ha saltato un altro giro, troppo, troppo. Senti Luca, però io non ce lo vedo Franceschini nei panni di un aizzatore di folle, come dice la Littizzetto, si dovrebbe berlusconizzare, di parlare un po' alla pancia del paese, non ce lo vedo in questi panni, magari scopriamo Franceschini nuovo. Ti ripeto, il cocktail è coca, crack e epo, perché se no non l'hai visto, come uno che non gli si spettinano mai i capelli. Io sono impressionato da questo caschetto di Franceschini che sembra quello degli antenati, no? Sembra scolpito da un disegnatore. È uno senza età, poi quanti anni ha Franceschini? Sembra senza età. Sì, lo vedo uguale da anni, che potrebbero essere 60 o 30, ma non parliamone male perché è una bravissima persona. No, ma non ne parliamo male. Il carisma è un'altra cosa, il carisma è il sangue nelle vene, è il discorso che infiamma, è la capacità di accendere un'emozione per cui qualcuno ti crede e dica cacchio, io questo lo seguo, attualmente non sembra. Grazie a Luca Telese di essere stato con noi, 19:53:29. Giorgio da Roma, buonasera. Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori. Volevo fare una notazione velocissima sul discorso delle ronde. Io penso che uno Stato, senza andare a rispolverare il contratto sociale, Rousseau e quant'altri, lo Stato che appalta dei privati cittadini e controllo del territorio è mutatis mutandis una società che ha fatto, uno Stato che ha fatto bancarotta. Cioè, sostanzialmente viene meno ad una delle fondamentali prerogative di uno Stato moderno. Beh sì, guardi Giorgio, in linea di massima io sono d'accordo con lei, per fortuna non si tratta di questo. Secondo me, ripeto, è stato inutile istituire dal punto di vista proprio di una legge le ronde o comunque i presidi dei cittadini, chiamiamoli come volete, però non è che lo Stato appalta la sicurezza ai cittadini per strada, insomma non si tratta e non si tratterà di questo, per fortuna. Esatto, quindi se posso fare una notazione riferendomi anche a quello che lei diceva prima sull'utilità o meno, francamente visto che si parla o di pensionati e quindi diciamo, vedo poco questi pensionati che naturalmente per un fatto di età, per un fatto di altra natura, li vedo poco a girare per zone buie, per parchi o quant'altro, nel tentativo di evitare che accadano determinati odiosissimi reati. Quindi sostanzialmente mi sembra molto di facciata e poco di concreto, perché altrimenti dovremmo pensare a dei giovani, ma allora assolutamente inesperti, con altro tipo di problemi. La ringrazio. No, la ringrazio. Luigi, provincia di Cagliari. Torniamo in Sardegna allora. Luigi. Pronto? Buonasera, dottore. Dica. Dunque, io volevo darvi qualche chiarimento sulle compagnie baracellari in Sardegna. Oh sì, la ringrazio, molto velocemente, Luigi, mi dica. Ecco, già esistevano ai tempi, nel periodo medievale, vennero restituite dalla dominazione della spagnola in Sardegna attraverso circa il XVI secolo. Ma adesso che fanno? Esistono ancora? Adesso sono state nel 1898 sono state rilanciate, sì, con due regi decreti, il 403 e 404 del 98, punto, 1898, punto, che sono due leggi speciali per la Sardegna ad hoc, che istituivano una le compagnie baracellari e l'altra trattava di abigeato, cioè di furto di bestiame. Ora esistono anche oggi, Luigi? In nel 1988 una legge regionale, la numero 25, le ha in qualche modo rilanciate, diciamo, anche se devo dire la legge 25, la legge regionale 25 ha peggiorato le cose. Però Luigi, mi scusi, adesso al di là degli aspetti tecnici, sì. Queste compagnie baracellari esistono ancora oggi? Quanti uomini ci sono? Sono armati? Sono armati e che fanno? Beh, ogni comune stabilisce il numero della... ogni amministrazione comunale stabilisce il numero delle compagnie baracellari che sono comandate da un capitano, sì, con coadiuvato da due o più ufficiali e da un certo numero di baracelli che hanno il compito soprattutto di vigilare le campagne, ma spesso e volentieri vengono anche chiamate per vigilare gli edifici pubblici o dare una mano alle forze dell'ordine. Sono armati? Sono armati, hanno un'autorizzazione rilasciata dalla prefettura, devono sottoporsi a delle visite mediche e dei corsi di tiro. Senta, le chiedo una cosa, poi abbiamo i telegiornali delle 20, i titoli. Possono essere assimilate queste compagnie baracellari alle ronde di cui si parla? Luigi, non la sento più. Non la sento più. Bene, alle 20 in punto andiamo a sentire i titoli del TG5. Il governo USA progetta una parziale nazionalizzazione di Citigroup, la più grande banca privata americana. Berlusconi, in Italia 40 miliardi per interventi anticrisi, l'inflazione frena. Napolitano, le università, leva dello sviluppo, no a tagli indiscriminati. Il ministro Gelmini, è ciò che fa il governo, eliminati solo gli sprechi. Dopo le polemiche seguite ai recenti fatti di cronaca, i ministri degli esteri Frattini e Diaconescu sono a colloquio a Roma. Fuggito in Italia il 40% dei latitanti di Bucarest. Delitto di Garlasco, domani il gran giorno per Alberto Stasi. Rinvio a giudizio per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi o proscioglimento. Decisive le perizie scientifiche. Il TG5 nel carcere di Opera, vicino a Milano, dove sono detenuti boss come Riina e Setola. Il racconto degli agenti speciali addetti alla loro sorveglianza. Risultava invalido al 75%, ma rubava negli appartamenti arrampicandosi sui muri. L'uomo colto sul fatto mentre si calava da un balcone dopo un furto. Per il designatore arbitrale Collina potrebbe essere introdotto anche nel calcio il cosiddetto cartellino arancio con l'espulsione a tempo. Avviene già nella pallanuoto. Bene, bene, alle 22 minuti andiamo a sentire la 7, titoli. Inizio settimana nel segno del pessimismo per le borse mondiali. Wall Street apre in ribasso e trascina i listini europei. Obama studia la parziale nazionalizzazione per Citigroup, la più grande banca nel mondo. Intanto Moody's abbassa il rating della Fiat, che crolla a Piazza Affari. Napolitano chiede al governo di stoppare i tagli all'università, rivedere le scelte di bilancio. La ricerca e sviluppo, dice. Il ministro Gelmini replica, vogliamo solo tagliare gli sprechi. Negli Oscar, trionfo annunciato per The Millionaire, un film non hollywoodiano ambientato nei sobborghi di Mumbai, diretto da uno scozzese, costato poco. Sconfitto il favorito della vigilia, lo strano caso di Benjamin Button, pellicola da 150 milioni di dollari. E infine espulsione a tempo, come nel rugby e nella pallanuoto. La FIFA si appresta a discutere l'introduzione... Andiamo dunque di nuovo in provincia di Cagliari. Luigi, le chiedevo prima, queste compagnie baracellari sarde possono essere paragonate alle ronde di cui si parla adesso? Ma penso di no, perché hanno una maggiore autorità, chiamiamola così, tra virgolette, in quanto... possono multare direttamente i trasgressori della legge e del regolamento comunale. Certo, hanno un ruolo che praticamente è un ruolo che sostituisce in alcuni casi quello della polizia locale, diciamo. Esatto, sì, possono addirittura sequestrare il bestiame trovato in pascolo abusivo quando provocano dei danni rilevanti o sconfinano in territori non autorizzati, e quindi hanno una maggiore, diciamo... Certo, non c'è dubbio, Luigi. Tra l'altro c'è una cosa da notare, che venne queste le leggi, i decreti 403 e 404 del 1898, e la legge legge regionale 25 del 1988 vennero fatte soprattutto anche per alleggerire il lavoro delle preture, perché c'era un intasamento abbastanza rilevante, per cui sia l'abigliato, cioè il furto di bestiame, che il pascolo abusivo venivano depenalizzati pagando una semplice multa a seconda del danno dei capi. Ho capito perfettamente. Luigi, lei è stato molto utile, la ringrazio. 25 minuti, TG1, titoli. Per salvare le banche USA, il presidente Obama lancia un pacchetto finanziario pubblico. Lo Stato entra con il 40% nel colosso Citigroup. Napolitano, no a tagli indiscriminati su università e ricerca. Il ministro Gelmini, d'accordo, ma eliminiamo gli sprechi. Franceschini al TG1, opposizione decisa, basta litigi nel PD. Sul testamento biologico, terza via di Rutelli. Il sottosegretario Bonaiuti torna all'antiberlusconismo. Garlasco, domani udienza preliminare per la morte di Chiara Poggi. In aula Alberto Stasi, guerra di perizie tra accusa e difesa. Addio al vecchio termometro al mercurio, troppo tossico per l'ambiente. Dal 3 aprile sarà bandito da tutte le farmacie. L'India vince l'Oscar con The Millionaire, 8 statuette. Bene, bene, stasera... The Millionaire, uno dei titoli preferiti dai telegiornali di oggi. Andiamo in provincia di Bari. Alessandro, buonasera. Buonasera. Dica. Sente? La sento bene, dica pure. Volevo dire che ho ascoltato le dichiarazioni di Franceschini. Adesso che mi sembra fuori luogo questa costituzione in cui lui dichiara fedeltà. Che non ha nessun titolo per fare queste dichiarazioni, non è un premio. Guardi, la sentiamo molto male. Riprendiamo la comunicazione con lei tra pochissimo. Un ascoltatore mi sprona a chiamare Bruno Tinti, che è un magistrato che ha scritto, un ex magistrato che ha scritto un libro sulla giustizia. Sentiamo però Franceschini intervistato dal TG1 da Andrea Montanari. Semplice, smettere di litigare. I nostri elettori sono stanchi di vedere persone che fanno parte della stessa squadra, che cercano il protagonismo, che cercano di farsi vedere, di differenziarsi, anziché insieme andare contro l'avversario. E penso che lo stesso discorso dovrebbe valere per l'opposizione. Il momento delle alleanze verrà fra qualche anno, le alleanze con cui cercare di vincere le prossime elezioni. Adesso dovremo contrastare tutti insieme il governo Berlusconi. Opposizione, secondo 7 elettori su 10, lo dice Mannheimer in un sondaggio pubblicato stamane da Corriere della Sera, occorre una svolta nel vostro modo di fare opposizione. Qual è la sua ricetta? Ma io ho letto, è tornato l'antiberlusconismo, non capisco cosa voglia dire. Quando un presidente del Consiglio nega l'esistenza stessa della crisi economica, quella che tutte le famiglie sentono sulla loro pelle, quando pensa di andare contro lo Stato di diritto affidando la sicurezza non più soltanto ai carabinieri e alle forze di polizia, ma a squadre di privati cittadini, allora i riformisti, allora anche un moderato alza la voce con forza. Lei ha ricordato la crisi economica. La ricetta del governo non vi va bene, ma se foste voi al governo con una crisi di queste dimensioni, che cosa fareste? Una cosa chiara. Nella crisi bisogna prima di tutto non dimenticarsi di chi da solo non ce la fa. E quindi un'indennità di disoccupazione per tutti quelli che perdono il posto di lavoro, a cominciare dai lavoratori precari, e un intervento per aiutare e aumentare gli stipendi e i salari più bassi, per mettere le famiglie in condizione di vivere. Questo, Franceschini, indennità di disoccupazione, aumento degli stipendi più bassi, poi Berlusconi contro lo Stato di diritto, eccetera, eccetera. Andiamo a Forlì da Roberto. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Bruno Roberto e chiamo da Forlì. Volevo fare una piccola osservazione. Io sono un cattolico e frequento la parrocchia e per noi quella delle ronde è un'opportunità. Non è che in strada scendono solamente delinquenti e criminali, scendono anche persone, secondo noi, che vogliono aggregare, conoscere, star vicino alla nostra popolazione, star vicino agli altri. Io non vedo tutto questo oscurantismo e solo questa cattiveria che in strada dovrebbero scendere solamente i delinquenti. Ecco, una piccola riflessione. No, Roberto, certamente è come dice lei, esistono tanti esperimenti riusciti, ce li segnalano gli ascoltatori attraverso i messaggi di presidio del territorio, però appunto esistono già, non si... non si, francamente, la necessità di una istituzionalizzazione delle ronde. Tantissimi sindaci avevano messo in moto un meccanismo di questo tipo, no? Senza che ci fosse poi il timbro del governo con un decreto per fare una conferenza stampa. È questo che poi non torna. Vedremo poi i tempi, no? Per il decreto, per i criteri. Quando c'è il timbro del governo su una cosa di questo tipo, la cosa assume una dimensione diversa. Anche se poi abbiamo sentito la parola di Franceschini, a me sembra naturalmente una cosa esagerata, lo Stato di diritto messo in pericolo dalle ronde. Ecco, andiamoci piano con queste cose, no, Roberto? Sì, è anche la nostra sicurezza comunque essere tutelati e legalizzati. Ecco, comunque si va in strada per unire e non per disgregare, come cattolici. La ringrazio. Paolo da Bologna, buonasera. Paolo, mi sente? Oscini, allora, sempre da Bologna. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dica pure. Che nome è il suo? Che nome è il suo? Osni. Di che origine? Sono tunisino, vivo qua in Italia da 20 anni e volevo intervenire su esprimere la mia opinione sulle ronde, se posso. Prego. Niente, io temo che le ronde creano ulteriori complicazioni nella società, perché per quello che ho capito, se non sbaglio, non fanno nessun corso di formazione per essere istruiti, visto che il tema è molto, molto delicato se riguarda la sicurezza e la pubblica relazione. Mi spiego meglio. Visto che io sono cittadino straniero e tra l'altro anche oscuro di carnagione, spesso accade che vengo fermato per un controllo di routine. Però se vengo fermato da un agente, mi affido alla sua professionalità. La mia paura è che se vengo fermato dalle ronde, la mia paura è questa, che non vorrei che qualcuno fosse spinto da rabbia o da pregiudizi e che tra l'altro non penso che sarà istruito come un agente, non vorrei che si creino problemi che magari non succedono con un agente. No, ma i suoi timori sono fondati, Oshni. Se le ronde avessero questo potere di fermare le persone, io spero, ma non credo che sia nelle intenzioni del governo creare delle ronde in cui il compito è anche quello di fermare le persone. Io se vengo fermato da qualcuno che non ha una divisa, faccio bene a ribellarmi e non do nessuna generalità, non consegno nessun documento. Questo è fondamentale, lei ha perfettamente ragione. Non credo, da quello che ho letto, che sia nelle intenzioni del governo creare delle ronde che possano fermare delle persone per strada, ci mancherebbe altro. La mia curiosità è anche questa, ma una volta si è deciso che le ronde saranno insomma in circolazione, ma faranno qualche corso almeno per conoscere meglio la legge italiana, il diritto del cittadino e tutto il resto, così almeno uno un attimino si tranquillizza. No, certo, Oscini, guardi, lei mi ha dato anche un'idea, ecco, da domani magari cominceremo a esplorare il mondo delle ronde italiane per capire un po' cosa bolle in pentola, perché in realtà il governo arriva quando il fenomeno già è esploso da qualche tempo. Andiamo a Brescia da Fabio, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Intervenivo per l'elezione di Franceschini. Sì. Niente, la mia soltanto un'analisi sul fatto che a questo punto Franceschini sarà obbligato, secondo me, a virare un po' a sinistra e cercare di rimbarcare tutta l'estrema sinistra che non è più presente in Parlamento. Penso che questo non lo aiuterà a guadagnare molti più voti di quanti ne abbia già adesso e semmai facilmente porterà la scissione degli ex della Margherita. Ecco, volevo sentire un commento. Ma guardi, non credo Fabio che si arriverà a questo. Sarebbe paradossale con Franceschini, che è un cattolico che viene da una certa esperienza nel Partito Popolare, prima della Democrazia Cristiana, se si arrivasse ad una spaccatura di questo tipo. Se dovesse mai arrivare alla spaccatura, non sarà perché Franceschini vira a sinistra, ma per altri motivi, naturalmente. E c'è Ritana Armeni con noi, buonasera. Ciao Ritana, che ha appena finito di condurre Titoli su Red TV e dunque sarà ferratissimo pochissima su tutte le cose di attualità. Di che avete parlato? Di Franceschini e del giuramento? Abbiamo parlato di Franceschini, abbiamo parlato del testamento biologico, perché oggi è scoppiata immediatamente dopo a 48 ore da un discorso un po' pacificatore sull'argomento, è riscoppiata una grana grossa sul testamento biologico, perché Rutelli ha preso le distanze dalle posizioni del Partito Democratico di nuovo, quindi come dire ci risiamo esattamente alla situazione prima della elezione di Franceschini. Poi Franceschini ha appena detto al TG1 nessun dirigente deve parlare in maniera diversa dalla linea del partito, che in questo caso non c'è, bisogna dire, sul testamento biologico. No, ed questa è... scusami, ma mi sembra proprio una cosa assolutamente assurda e folle. Io l'ho sentita anch'io, ma è un discorso che Franceschini ha detto una cosa che Franceschini ha detto anche nel suo discorso, cioè non bisogna andare alle televisioni ed esprimere le proprie opinioni. Non so come definire una cosa del genere. Mi ricorda un po', Ritanna, ti ricordi il Prodi quando per bocca di Sircana emanò quella specie di decalogo a Caserta, no? Sì, quello di decalogo per il quale diceva che... Ma cioè, questa è una cosa non solo sbagliata, ma anche impossibile, voglio dire, nella società della comunicazione. Tutti comunicano, in una società libera tutti dicono quello che vogliono adesso. Però questa mi è sembrata veramente una gaffe, sinceramente. Senti, come giudichi questa ennesima divisione sul testamento biologico? In realtà non è che si può parlare di vera e propria divisione, c'è un pezzo, un pezzettino forse del Partito Democratico che non intende seguire una linea che fino adesso non è che sia stata molto precisa, tutto è abbastanza caotico e incomprensibile. C'è una linea che è quella di Marino, che non è stata abbracciata dal partito, diciamo dal segretario, forse nemmeno da Franceschini, non si sa, perché non si capisce nemmeno la linea di Franceschini. Guarda, io credo che questa sia una divisione molto più profonda di quello che appare, nel senso che appare già molto profonda, ma lo è molto di più, ed è anche un fatto, una divisione simbolica. Cioè, se ci sarà una divisione del Partito Democratico, e io come dire la prevedo in qualche modo più profonda di quella che avviene adesso, non voglio usare la parola scissione, perché ovviamente uno prevede sempre scissioni, poi in genere ci sono, ma non è questa. Insomma, divisione profonda andrà su quello, perché come tu sai bene è il tono che fa la musica. Quando Rutelli, a 48 ore dalle elezioni di Franceschini, che peraltro fa parte della sua stessa area politica di riferimento, cioè della Margherita, sente il bisogno concretamente di dire un'altra cosa, quando Ignazio Marino viene sostituito da Dorina Bianchi, che su posizioni diverse dalle sue, quando la Binetti aspetta un giorno sì un giorno no per dire che non è d'accordo, devo dire che tutto questo lascia davvero presagire che su questo punto non siamo una normale dialettica, non c'è niente di normale in questo. Voglio chiederti una cosa, come giudichi, non personalmente Beppino Englaro, per carità, non voglio un giudizio personale sulla battaglia che ha condotto Beppino Englaro, però sul fatto che, e su questo secondo me Giuliano Ferrara non ha del tutto torto, anche nella sua trasmissione di questa mattina, ma anche nell'editoriale sul Foglio, insomma, alla fine della sua della vicenda della figlia aveva detto sparisco, non voglio più essere cercato, lasciatemi perdere, eccetera. Dopo è iniziata di nuovo l'apparizione in televisione, per carità assolutamente legittima, anche qui a Radio 24. Come giudichi tutto questo? Guarda, io ho scritto un articolo, una lettera a Beppino Englaro che uscirà domani sul Riformista, sì. Una lettera aperta nella quale io, che lo appoggio, l'ho sempre appoggiato e lo considero una persona come dire alla quale mi sono sentita sinceramente unita, e gli ho spiegato perché le sue ultime dichiarazioni mi avevano provocato, diciamo, un sentimento di fastidio, e me lo sono chiesto e ho capito il motivo. Beppino Englaro rappresenta una cosa molto importante per l'Italia, per noi, perché ha fatto una battaglia coraggiosa, ha squarciato il velo dell'ipocrisia, ha detto, è intervenuto su quel terreno complicatissimo ormai che c'è tra la vita e la morte delle persone. E allora tutto questo, secondo me, non può essere ridotto all'ideologia della politica, è qualcosa di molto di più. Sì. Guarda, Beppino Englaro ha fatto una cosa, secondo me, straordinaria, se ho un minuto di tempo. Come no, certo, io certo. Sono rimasta molto ammirata. Non ha consentito che le foto del corpo devastato di sua figlia andassero in giro per i giornali. Avrebbero fatto cambiare completamente la percezione. Esatto, ha rinunciato a uno scatto fotografico che cambiava. Cambiava la politica di quei giorni drammatici, sì, che sì. Stavamo vivendo, e l'ha fatto per un atto di rispetto. Io credo che lui con rispetto per se stesso debba ritrarsi da una foto di gruppo, Diciamo che la sua battaglia, c'è tanta gente che la vuole continuare, e abbiamo visto le manifestazioni, abbiamo visto che la gente scrive, e allora la lasci a noi tutti che la vogliamo portare avanti. Lui si ritiri perché lui è più importante della politica, è più importante dell'ideologia. Lui riduce la sua battaglia se dice che si sente vicino a Loris Fortuna. Per carità, con tutto il rispetto, cerchiamo certo di capirci, per Loris Fortuna, per il partito, per il PSI laico di Bettino Craxi, per le manifestazioni. Lui deve capire che lui è diventato un simbolo, è qualcosa di più. La sua battaglia l'ha fatta, può continuare a farla senza rientrare nei sentieri, come dire, inevitabilmente stretti della politica. Sì, e senza palchi e senza manifestazioni, secondo me. Ecco, però secondo me sì, ma questo, guarda, io ci tengo a dirlo, lo dico per un eccesso di stima nei suoi confronti, proprio sì, perché ho apprezzato molto la sua battaglia. Ecco, io no, tu sai che io sono molto amica di Giuliano, ne ho chiacchierato con lui di questo. Io non sono d'accordo ovviamente con lui, io muovo da un pregiudizio positivo nei confronti di Beppino Englaro, non negativo. No, è proprio per questo, credo che le tue parole abbiano un valore assolutamente importante, nel senso che ritirarsi, ecco, dai palchi, dalle manifestazioni, non vuole essere nemmeno un invito, è una considerazione, non si può. No, è una considerazione. Io quando ho sentito, ho letto le sue parole, ho letto che, guarda, vada bene, guarda, siamo come dire onesti con noi stessi fino in fondo. Beppino Englaro ha fatto quella battaglia perché è lui, e quando si dice che lui non è solo un padre addolorato come lo era, indubbiamente, un uomo che ha vissuto un dramma, ma naturalmente c'è anche le sue idee, no? Noi siamo tutti noi. Però secondo me, come dire, a questo punto della sua vicenda politica lui è diventato qualcosa in più delle sue idee. Voglio dire, si può combattere per grandi ideali senza necessariamente scendere in politica. Rosa Parks è stata la prima donna nera che ha rifiutato di dare un posto a un bianco, no? Ecco, bene, lei ha fatto un atto enorme per il quale è entrata nella storia senza bisogno di diventare deputato. Adesso non sto dicendo che Beppino Englaro vuole diventare deputato. Voglio dire che ci sono delle persone, Beppino è una di queste, che hanno un ruolo enorme già nella nostra vita e nella nostra battaglia politica. E farla lui in prima persona significa paradossalmente ridurre il suo ruolo, ridurre il significato del suo messaggio. Sì, perché poi sai, in Italia queste cose vengono spesso strumentalizzate, allora l'intervista con Flores d'Arcais, l'apparizione nelle piazze, tutto viene, no? Tutto poi entra nel grande calderone del dichiarificio quotidiano italiano. Ti faccio fare, se vuoi, un'ultima considerazione, che è anche, se vuoi, c'è un filo conduttore con la vicenda di Englaro, cioè le apparizioni televisive, le cose che vengono fatte per marketing. Il giuramento di Franceschini sulla Costituzione, te lo chiedo perché so quanto per cultura politica, insomma, la difesa della Costituzione faccia parte del tuo bagaglio. Come l'hai vista questa cosa? Un po' finta. Un po' finta, ma non perché lui non creda nella Costituzione. No, certo. Ovviamente ci crede, come ci crediamo, come ci credo io, ma perché ne ho visto, come al solito, il fatto che si mette al primo posto uno spettacolo, cioè lo spettacolo di lui. Io, insomma, non lui che va a Ferrara che guida e che giura sulla Costituzione di suo padre. È una cosa che a me non ha provocato la minima emozione, perché ho sentito qualcosa di costruito, di artificioso. Ecco, finto forse una parola grossa, io, come dire, non mi metto un gegio in bocca. No, ma fai benissimo. La prima cosa che mi viene in testa la dico. Dico artificioso, però sì, l'ho sentita fortemente artificiosa, cioè non è molto. Cioè non, guarda, il simbolico è molto importante, certo. Tutti noi, l'artificioso no. Ecco, ci sono dei gesti simbolici, il simbolico è importante perché riesce, il momento in cui si esprime in modo evidente per tutti una cosa molto profonda, no? Abbiamo parlato sì, di Englaro. Ecco, io lì invece ho visto una costruzione un po' artificiosa. Ecco. E poi non credo che consideri Berlusconi un pericolo per la democrazia, pur non essendo, insomma, una simpatizzante berlusconiana. Comunque se è contro Berlusconi c'ha modi e tempi per fare la sua opposizione, voglio dire, no? Non è che, cioè, non negheremo mica la possibilità di fare un'opposizione. Figuriamoci. Ecco, l'opposizione si può fare, ma è anche con dei gesti simbolici, quello, ripeto, un po' artificioso, no? Anch'io l'ho trovato così, grazie Ritana Armeni, buona serata. Andiamo a Roma da Angelo. Angelo, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo fare una brevissima considerazione sulla questione del Partito Democratico. Secondo me di fatto, contrariamente a quello che diceva Ritan Armeni, cioè che non vuole parlare di scissione, che non vuole parlare, il partito di fatto si è già scisso, perché alla segreteria erano candidati due uomini che rappresentano comunque l'ala centrista, come la vogliamo chiamare, Margherita, Ulivo, adesso non so manco più, hanno cambiato talmente tante volte nome che mi sono perso un po' nei meandri. L'ala sinistra, quella diciamo di D'Alema, come la vogliamo chiamare, comunque la parte sinistra del partito forse non era neanche presente, o comunque se lo era non mi pare che abbia espresso grande rappresentanza in questo momento. Quindi di fatto si sono già separati in casa. Adesso succederà che molto probabilmente, questa è la mia opinione, ma tanto in Italia ci sono più opinionisti che opinioni, per cui tanto vale darne una in più o in meno, che alla fine faranno queste elezioni europee, perché non credo che prima delle europee si riuscirà a fare qualcosa, e poi ognuno andrà per la sua strada. Ma io questo non lo so, Angelo. Può darsi che sia così, può darsi che ci sia un rinsavimento, può darsi che invece la scissione sia una necessità. Le politiche sono così divergenti, le linee politiche sono così diverse che è inevitabile. Può darsi, non lo so. Secondo me c'è una assoluta mancanza di regole all'interno di un partito di questo tipo. Regole intendo decisioni a maggioranza, tanti leader che non vogliono abdicare al loro spazio mediatico e politico, e dunque a relativi posti per loro e per i loro uomini. Però questi leader hanno anche consenso. Io ho sentito anche con attenzione un'intervista che Piero Fassino ha dato a Lucia Annunziata nella rubrica In Mezz'ora, e Fassino, una domanda specifica, precisa su questo punto, ha detto: beh, quelli che vengono chiamati, no, la nomenclatura del Partito Democratico, poi hanno consenso, sono leader riconosciuti che quando vanno a fare i comizi attraggono migliaia di persone che vengono votati. Non è un argomento da poco, Angelo. Infatti io sono assolutamente d'accordo, io sono convintissimo che dietro a queste persone ci siano i consensi. La realtà è che non c'è però un punto di sintesi tra di loro. E tra le altre, secondo me, una scissione del PD, cioè quindi un ritorno ad un'altra formula, potrebbe aprire anche, a mio avviso, molto più di quanto lo farebbe la famosa opposizione dura che tutti dicono, un fronte all'interno della maggioranza, perché anche dalla parte di là c'è tanta gente che se ne starebbe molto molto volentieri per conto suo, secondo me. Può darsi, perché... infatti, Angelo, secondo me la strada peggiore è quella di un anti-berlusconismo che può portare magari dei piccoli vantaggi nell'immediato, ma poi non produce risultati concreti. Fernando da Chieti, andiamo un po' più veloce perché alle 20:44 chiudiamo. Fernando, dica. Sì, buonasera. No, niente, era su Franceschini, ma in gran parte è stato detto. Lui, secondo me, ci saremmo aspettati qualcosa di più da parte sua del discorso iniziale, che guarda caso è andato su Berlusconi, e lui parla di rispetto, parla di tante altre cose, ma insomma deve avere rispetto anche dal fatto che Berlusconi è stato eletto con un consenso praticamente bulgaro, quindi lui ci avrebbe dovuto dire qualcosa di più di come ricostruire questo benedetto partito, che è il partito della classe operaia, tutto qui, insomma. Adesso forse non mi sono spiegato. Partito della classe operaia, quello mi sembra che non sia più così, abbia pazienza, Fernando. Può darsi che debba recuperare consenso tra i lavoratori. Tra i lavoratori, vabbè, era generico il discorso, però voglio dire, parte con sto Berlusconi, basta, lui ha vinto le elezioni, facciamo qualcosa di nuovo, raccontiamoci qualcosa di più interessante, insomma. No, Fernando, sono d'accordo con lei, è che come ha sentito, in qualsiasi intervento c'è Berlusconi, no? In qualsiasi intervento c'è Berlusconi, il pericolo, le leggi quasi razziste, le leggi che discriminano, il pericolo per la democrazia, gli spazi che si riducono, l'uomo solo al comando, eccetera, eccetera. Che vuole fare? Sono discorsi vecchi? Anche lei li ha trovati vecchi? Purtroppo sì. La ringrazio. Titoli del TG2. Inflazione in brusca frenata, scende all'1,6% a gennaio, confermano i dati Istat dopo il calo di energie e carburanti. Il ministro Scajola soddisfatto, i consumi afferma tengono. Napolitano, la ricerca è la leva dello sviluppo, rivedere i tagli indiscriminati. Il ministro Gelmini, le sue preoccupazioni sono anche del governo, ma è nostro dovere eliminare gli sprechi. È rientrato in Gran Bretagna il primo detenuto di Guantanamo, liberato dopo l'ordine dato da Obama, etiope residente nel Regno Unito, ora accusa: mi hanno rapito e torturato per anni. Giallo di Garlasco, Alberto Stasi, unico imputato domani davanti al giudice. La difesa gioca un'ultima carta. Nuova memoria difensiva, centinaia di pagine per contestare le accuse. Arrestato mentre si calava da un appartamento appena svaligiato, 27 anni passati in carcere, fuori per permesso. Il ladro acrobata a Genova risultava invalido con tanto di pensione. The Millionaire sbanca gli Oscar con 8 statuette, l'India esulta, ma in Italia nel doppiaggio del film un errore di traduzione trasforma i musulmani da vittime in carnefici. Eccoci 20:38, 800 24 00 24, andiamo veloce. William Milano, buonasera. Buonasera dottore, dica. Ringrazio per la telefonata, complimenti per la trasmissione. Dica pure. Io non vorrei, riguardo le ronde, che poi si generi magari confusione. Io ho avuto l'opportunità di presiedere un parco regionale per 6 anni, abbiamo all'interno di questo parco una polizia locale ufficiale, ma abbiamo ben 70 volontari. Questi 70 volontari, io le spiego in un attimo, vorrei, sono guardie ecologiche volontarie da un decreto regionale e guardie ecologiche vigilanza antincendio boschiva. Vabbè, quello però è un altro discorso, non ha niente a che fare con le ronde. No, ma è vero, ma il problema è che poi è intervenuta la protezione civile, siamo diventati nucleo di protezione civile. Le guardie ecologiche volontarie hanno un decreto regionale, addirittura sono DPS, potrebbero elevare il verbali. Sì, ma verbali su che cosa? Mi scusi, su questioni che riguardano i parchi. Sul controllo territoriale, cioè io... Sì, ma non è che possono fare la multa a una macchina perché è in divieto di sosta? No, il divieto di sosta in caso siano comunque in un parco. Lei considera che questo parco ha 16 comuni? No, ma ho capito perfettamente, William, qui stiamo parlando di un'altra cosa però, Io lo so che stiamo parlando di un'altra cosa, però tutti i comuni hanno dei nuclei di protezione civile. Io dico, ci andiamo a creare dei problemi e stiamo generando una discussione che potrebbe mettere addirittura in difficoltà persone che danno il loro tempo e lo danno in modo particolare. E l'unica cosa che io vedo in questa cosa che manca semmai il concetto della formazione, siccome le persone che... Non ho capito, che problemi potrebbero essere creati a queste persone? Ma no, problemi no, però io dico che vanno valorizzate per quello che danno del tempo e lo danno per noi, lo danno per i cittadini. No, ma d'accordo, questo, valorizzate in che senso? Lo danno per i cittadini perché fanno un controllo territoriale. Lei consideri che alla sera la vigilanza di incendio boschivo è in giro con le jeep a controllare il territorio boschivo, per cui le strade comunque del parco, le strade comunque dei comuni del parco. Ho per capito. Cui il concetto di legare magari una consorziazione di comuni per creare un controllo del territorio, magari sbagliando chiamandolo ronde, perché poi magari lei non la vede così, non la vede così negativa. No, non la vedo negativa. Guardi, William, la ringrazio, la ringrazio, però nel caso che lei ci ha spiegato riguarda un territorio specifico, che è un parco, e allora ci può stare naturalmente il controllo del parco, eccetera. Poi immagino che queste guardie non siano armate, naturalmente. Ci sono già moltissime esperienze di questo tipo. Diciamo che con le ronde il piano è un po' diverso e lo scopo è molto, molto diverso. Emiliano da Bologna, buonasera. Dica. Io deve essere molto piccola... rapido, deve essere rapidissimo. Volevo farle una piccola provocazione. Come no? A proposito dell'umorismo sul discorso di Franceschini, secondo me lei, ma anche molti altri giornalisti, non prendono abbastanza sul serio Berlusconi. Perché è tutto uno scherzo, è tutta una boutade, sì, le canzoni dei partigiani, di qua e di là. Quando in realtà Berlusconi ha dimostrato che tutto quello che dice fuori dalla campagna elettorale poi lo fa, per cui se lui ha detto che il Parlamento gli è un peso, lo dimostra con tutta la decretazione d'urgenza, che vuole decretare quando gli pare, che il partito ha chiaramente fatto capire il ruolo di controllo del Presidente della Repubblica, ma insomma si sa cosa ne pensa Berlusconi del presidenzialismo, no? E allora prendiamolo sul serio. Se uno si riconosce in questo ordinamento costituzionale attuale, è chiaro che Berlusconi è una minaccia. Se uno vuole cambiare, allora no, ma Emiliano, lei secondo me lei ha torto su tutta la linea, perché Berlusconi fin quando fa delle cose dentro la Costituzione, come i decreti legge che sono dentro dentro la Costituzione è dentro la Costituzione. Se viola la Costituzione ci sono le leggi, le guardie, la polizia, le leggi penali, eccetera, eccetera. E comunque in ogni caso su una legge c'è sempre il controllo della Corte Costituzionale. Dunque, ripeterò la mia solita frase, ma di cosa stiamo parlando? Emiliano, ognuno ha il diritto di immaginare un assetto costituzionale diverso. Lo dice Cacciari, non lo può dire Berlusconi? Non scusi, capito, se lo dice Cacciari che si può pensare a un assetto costituzionale diverso, perché non lo può dire Berlusconi? Io perché in questo assetto costituzionale lo ritengo. Ho capito, ma se uno vuole, ma se di libertà per me, d'accordo, di qualsiasi riforma fatta da Berlusconi ed è legge, ma che c'entra una riforma capito. Che c'entra una riforma fatta da Berlusconi o una riforma fatta da qualcun altro? Lei le piace questa Costituzione, non vorrebbe modificarla? Se Cacciari dice che bisogna modificarla va bene, se Berlusconi lo dice non va bene, mi no, spieghi? Se Cacciari dice e dimostra che la vuole modificare, Cacciari è una persona che per quanto per tante cose ne pensi diversamente. Ah, ho capito, se mi fido. Ah, ok, ho capito, bisogna mi posso fidare, ma ah, va bene. Opposizione politica. Ah, va bene, d'accordo. Allora dice se Berlusconi dice che vuole cambiare la Costituzione, siccome Berlusconi non lo può dire, se lo dice Cacciari allora si fida, ma qui si va a simpatie personali, Emiliano. Perché non lo può dire? Non mi fido del risultato. Lei non si fida, d'accordo, non sarà si fida. Sarà legittimo che non mi fidi del risultato di un accentratore. Ma ho capito, un accentratore. Emiliano, per carità, ognuno dà la parola accentratore il valore che dà. Abbiamo sempre pensato che ci volesse in Italia un pizzico in più di decisionismo, adesso non va bene, insomma. Cosa vuole che le dica? Andiamo a simpatie, e se proprio dobbiamo parlare di simpatie, allora Berlusconi forse ne ha qualcuno in più, insomma, rispetto agli altri, o no? O no? È questione di simpatia, è questione di capacità di ricoprire un ruolo istituzionale. Nel caso Fini fosse presente, ma siamo sempre nel campo delle simpatie o antipatie, delle simpatie politiche o delle antipatie politiche. Secondo lei Berlusconi è un accentratore, un cattivo politico, dunque se cambia la Costituzione inevitabilmente la cambia male. Invece Cacciari o altri no. D'accordo, questo è il suo parere, ma non è un discorso che ha a che fare con la minaccia alla Costituzione o un pericolo, cioè un'altra cosa. E per lui il Parlamento è un peso, io mi fido, perché è quando peso, dieci anni fa disse che tutti i cittadini sono uguali ma alcuni sono più sì, uguali ma il Parlamento, Emiliano, il Parlamento è ineliminabile, ci sarà sempre, non si preoccupi, nessun Berlusconi eliminerà il Parlamento. Comunque, siccome è una discussione molto interessante e avevamo pochi secondi e siamo andati oltre, Emiliano, la invito domani sera. Se vuole ne parliamo più a lungo. Paolo da Bologna, Nicola da Firenze e Stefano da Trento ci sentiamo se vogliono domani sera 18:30 alla Zanzara. Ciao.